prossimo venerdì alle 7.30, ovviamente online, ci sarà la presentazione del libro Volevamo cambiare il mondo, storia di avanguardia operaia 1968-1977, un libro curato da Roberto Biorce, Matteo Pucciarelli, edito da Mimesi nella collana Passato Prossimo. In questo appuntamento online di venerdì verrà introdotto da Roberto Biorce e Giovanna Moruzzi, coordinato da Vincenzo Vita, perché c'è un dibattito con dirigenti, allora l'avanguardia operaia, Giovanni Calamida, Giovanni Lanzone e Grazia Longoni, con Pierluigi Bersani, allora giovane militante dell'organizzazione. Saranno anche presenti testimonianze di Leonardo Altieri e Gianni Paoletti, ed è un libro in realtà costruito a tante mani, con tantissime interviste, curato anche da ricercatori storici, e abbiamo al telefono Fabrizio Billi dell'archivio Marco Pezzi, che ha contribuito largamente a questa produzione, quindi subito lui chiediamo il senso di questo volume. Ciao Billi. Buongiorno Alfredo. Ma il senso di questo volume è essenzialmente questo, cioè di approfondire le vicende di un aspetto del lungo 68 italiano, perché la storia di un'organizzazione di quella che si chiamava estrema sinistra, finta rivoluzionaria, è uno degli aspetti del 68 che in Italia, ricordiamolo, è durato per oltre un decennio, quindi dalle prime occupazioni dell'università nel 67-68, dalle prime mobilitazioni, lotte operaie, soprattutto nelle grandi fabbriche del nord, fino alla fine del decennio degli anni 70, fino alla marcia dei 40.000, alla Fiat a Torino nell'80, fino all'omicidio di Aldo Moro, che permette una svolta in tutto un altro senso alla vicenda del lungo 68 italiano. Ecco, l'idea da cui è nato questo libro è questa, semplicemente, cioè approfondire la storia di un'organizzazione, non tanto perché abbiamo una particolare passione per le organizzazioni, ma perché quell'organizzazione fu un'esperienza di vita vissuta e di politica che coinvolse decine di migliaia di persone che provarono a cambiare le cose. E essenzialmente il senso di questo lavoro è analizzare che cosa fecero quelle persone in quei 10 anni di vita. Il variegato candescopio dell'organizzazione dell'estrema sinistra extraparlamentare, avanguardia operaia rispetto alla lotta continua, potere operaio, il manifesto, che contributi in qualche modo, se si può sintetizzare, ha portato? Allora, intanto c'è da dire che finora non esistevano storie di avanguardia operaia, quindi abbiamo un po' questa piccola primogenitura. E non lo so perché non ce ne fossero finora. Una spiegazione che mi sono dato è che altre organizzazioni come Lotta Continua, il PDUP o Potere Operaio sicuramente hanno aspetti mediatici più appetibili. Lotta Continua e sicuramente ha un maggiore interesse mediatico, e similmente anche il PDUP, perché è un'organizzazione legata al quotidiano Il Manifesto, che esiste tuttora, e quindi un caso editoriale abbastanza unico. Ma il Potere Operaio, anch'essa è un'organizzazione che aveva molta attenzione da parte della stampa, e quindi la Vanguardia Operaia è un po' il parente povero in questa organizzazione. Però questo almeno apparentemente. In realtà penso che i punti di interesse della vicenda di avanguardia operaia siano soprattutto due, cioè l'importanza del lavoro di fabbrica e del radicamento che aveva tra gli operai di fabbrica, soprattutto le grandi fabbriche del nord Italia, in Lombardia, anche in Piemonte e in Veneto. I CUB, insomma. Sì, i CUB, i comitati unitari di base, che ricordiamo erano aggregazioni spontanee di lavoratori insoddisfatti della moderazione sindacale nelle trattative, e poi l'attenzione per gli studenti. Il grosso polo di radicamento di avanguardia operaia fu tra gli studenti delle facoltà scientifiche di Milano, e poi tra i lavoratori studenti, che anche se nella zona del milanese, della Lombardia, erano numerosi, avevano questa doppia veste di lavoratori e studenti. E penso che fossero questi i punti di interesse maggiori di avanguardia operaia. E quindi un'organizzazione, per quanto piccola, ebbe comunque un suo radicamento, e che ottenne anche molte cose, perché questo radicamento andò, e la sua influenza andò anche al di là delle effettive dimensioni di un'organizzazione. Penso che mi riferisco in particolare a militanti dei CUB di avanguardia operaia che nelle assemblee sindacali proponevano le proprie piattaforme e vincevano, perché quando si votava in assemblea i lavoratori spesso davano il proprio consenso. Quindi il nome Volevamo cambiare il mondo, e chiaramente il mondo non è più tanto cambiato, non è la storia di una sconfitta? No, è come tutte le vicende, ha i suoi aspetti positivi, negativi, ha vittorie, sconfitte. È una storia che non è completamente né in bianco né in nero, ma più che in grigio direi multicolore, perché ci sono tanti aspetti, non si può ridurre semplicemente a una vittoria e una sconfitta, però il senso di quel titolo è quello, cioè cosa si voleva fare nel 68? Cambiare il mondo, cioè se semplicemente era questa l'idea, cambiare la vita, e tante cose insomma si sono ottenute, pensiamo ad esempio ai diritti sociali, ai diritti civili, al divorzio, all'aborto, all'importanza del ruolo sociale delle donne e tanti cambiamenti anche nella scuola, nell'università. E poi ricordiamoci che gli anni 70 sono stati un decennio in cui c'è stato il maggior aumento del salario reale degli operai. Il senso di questo volume, il target, più o meno la domanda è la stessa, è un volume legato alla memoria e magari da dedicare a quelli che hanno vissuto quella stagione, oppure è un volume che parla anche al presente e ai ragazzi? Vuole essere soprattutto un volume che parla al presente e a chi non c'era. E le radici di questo volume sono doppie. Da una parte c'è l'interesse di alcuni storici, tra cui io che in quella stagione non c'ero per ragioni anagrafiche, che hanno voluto ricostruire quella storia, e l'altra radice del volume è invece l'idea di alcuni ex militanti di quel periodo e di quell'organizzazione che volevano raccontare ai propri figli, anche in prima di tutto, e poi ai giovani più in generale, cosa succedeva, perché spesso i figli in casa gli chiedevano ma cosa succedeva in quel periodo, cosa facevi, cosa facevate, e allora c'era questa esigenza di dare una risposta un po' più approfondita e articolata, quindi mettersi a ricercare, a studiare. Quindi è un volume che insomma non vuole essere autocelebrativo, ma vuole essere una riflessione. Nel dibattito di venerdì, in ultimo, dove sarà presente anche per Luigi Bersani, è curioso dirlo, ma allora riccioluto, ci sarà appunto una discussione di tutte le immagini, più legata alla storia oppure ci parlerà più dell'oggi? Ma le due cose sono inestricabilmente legate, perché come dicono storici molto più titolati di me, Mark Bloch e tanti altri, si fa la storia pensando sempre all'oggi, si guarda a ieri pensando a come le esperienze del passato possono aiutarci a capire il presente e magari a modificarlo. Questa è un po' l'idea, quindi penso che necessariamente si parlerà di ieri per riflettere anche su oggi e sul domani. Allora, per cliccare, venerdì ci si collega? Sì, venerdì ci si collega, la diretta Facebook sulla pagina dell'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, che appunto potete trovare su Facebook, e comunque se andate anche nel sito del Rio Marco Pesti trovate tutte le indicazioni e potete trovare anche i link alle antepresentazioni che già ci sono state e tante altre indicazioni utili, e potete trovare anche l'elenco delle persone che abbiamo intervistato per questo libro, che lo ricordo perché è una cosa non secondaria, anche secondo me il punto di forza del libro. Questo libro si basa non solo su documenti scritti, documenti d'archivio dell'epoca che sono stati conservati nell'archivio Marco Pezzi soprattutto, ma anche su oltre un centinaio di interviste a ex militanti dell'epoca. Perfetto, ti ringrazio Fabrizio. Grazie. Ciao. Grazie a te Alfredo, ciao.